Italia in controluce. È il 29 di ottobre e oggi è il giorno delle elezioni siciliane, vi parla Daniele Biacchesi, tra poco i dati in studio con Maria Luisa Pezzali. Posso già dire che alcune tendenze già si vedono, quando manca però ancora molto alla fine dello spoglio, la fortissima astensione, Rosario Crocetta in testa del Partito Democratico, UDC, Movimento Politico Unione Consumatori, la forte debacle del Popolo delle Libertà, che ricordo che era il primo partito per molti anni, per moltissimi anni in Sicilia, e soprattutto il boom di Grillo. Voi cosa ne pensate sulla base di questi primi dati? 349-238-6666, questi sono i vostri messaggi SMS. Tra poco con Nino Amadore, che si trova da Caltanissetta, dove si è installato da oggi il Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle, poi sentiremo le reazioni del Popolo e Libertà con Vincenzo Miglietta e quelle del PD o comunque del centro-sinistra con Betta Fiorito. Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Lo spoglio è iniziato questa mattina alle 8, siamo intorno al 20% delle sezioni, 1044 su 5308 è in testa appunto il candidato di PD e UDC Rosario Crocetta con il 31% dei voti, seguito dal candidato di PDL e la destra Nello Musumeci con il 26%. L'esponente del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ottiene attualmente il 17% dei voti, superando di poco Gianfranco Miccichè di Grande Sud, appoggiato anche da FLIA MPA, che ha il 15%. L'elezione, lo ricordiamo, è a turno unico, senza ballottaggio. Sarà eletto presidente della regione chi otterrà il maggior numero di preferenze. Grande incertezza e grande prudenza dunque. Quello che ormai certo invece è il dato sull'astensionismo record. Alle urne si è recato infatti meno di un siciliano su due, il 47%, contro il 66% del 2008, una flessione di quasi 20 punti percentuali che ha riguardato tutte le province, soprattutto i due capoluoghi principali, Palermo meno 22,8% e Catania meno 19,9%. Oltre la metà degli elettori dunque ha disertato le urne. Altro dato forte di queste elezioni, lo anticipavi tu Daniele, è l'exploit del candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Nelle sue prime dichiarazioni alla stampa questa mattina ha parlato di numeri spaventosi e ha fatto anche riferimento al dato sull'astensione. Sentiamolo. Stanno però arrivando i primi dati alle sezioni dal mio rappresentante di lista e i numeri sono spaventosi. Mi dispiace soltanto per il dato dell'astensione, che è molto alto, il 52% dei siciliani non è andato a votare. Questa è un po' una cosa che credo che chiunque diventa governatore poi dovrà attenzionare, perché fa capire che non c'è stata, diciamo, grossa partecipazione. Molto cauti sulle dichiarazioni gli altri candidati, li abbiamo contattati, ci rimandano tutti al pomeriggio, quando i numeri delle sezioni scrutinate saranno più consistenti. È di poco fa però una dichiarazione del segretario del PD di Palermo, Enzo Di Girolamo: pare che Rosario Crocetta ce la possa fare, ha detto. Siamo moderatamente ottimisti. Molto più staccati gli altri candidati, lo ricordiamo, in totale sono 10, fra gli altri intorno al 5,2% Giovanna Marano, segretaria regionale FIOM Sicilia, candidato di SEL e Italia dei Valori, 2,2% Mariano Ferro, il fondatore del Movimento dei Forconi, che l'inverno scorso ha paralizzato la Sicilia. A te Daniele. Allora, un ascoltatore ci dice che è una pericolosissima ascesa del populismo di sinistra, perché per colpa dei partiti tradizionali incapaci ora Grillo rischia di sbancare anche l'Italia, portandoci ad una deriva populista anti-europea. Lo dice Michele, 18 anni, Trento. Sicilia cartina tornasole ottimistica per ciò che ci attenderà poi a livello nazionale. I vostri SMS al 349-238-6666. Caro candidato grillino, impara l'italiano, attenzionare esiste? Domanda, diciamo, ma naturalmente è una domanda ad una registrazione, perché non era una cancelliere, non era in diretta. Se fossi un politico onesto mi dovrei solo dimettere, perché hanno fallito nella prima missione, portare la gente alle urne. Gregorio, credo, da Cosenza. Nino Madore da Caltanissetta, qual è il clima al comitato elettorale del Movimento 5 Stelle? Bah, insomma, dopo una fase, diciamo, di entusiasmo, ora si è in attesa dei dati definitivi e comunque l'entusiasmo è nettamente calato, insomma. Sono più i giornalisti che i militanti in questo momento presenti nel comitato, non c'è un'area di festa, si aspetta la fine dello scrutinio e, insomma, si fanno un po' le prime analisi, le prime considerazioni. Certo è che ancora è molto presto, perché tutto potrebbe ancora accadere. Ecco, però questo trionfalismo iniziale mi sembra sia un po' spento. Siamo, credo, al 17,5%, comunque sempre un ottimo risultato. Se dovesse andare avanti così, sostanzialmente si piazza come terzo movimento a livello siciliano. Questo è importante, certo è un risultato molto molto al di sopra delle loro aspettative. Credo che il tour di Grillo, 15 giorni qui in giro per la Sicilia, abbia contribuito non poco a farli crescere in termini di consenso, di conoscenza e di consenso elettorale soprattutto. La pattuglia dei grillini in Parlamento, l'assemblea regionale si chiama Parlamento perché non lo sapesse, potrebbe, diciamo, dare parecchio filo da torcere. Chiunque vada al governo dovrà misurarsi con loro, e loro hanno già detto e ribadito che non faranno accordi con nessuno. Ecco, un'altra analisi che faccio io, grazie Nino Amadore, vedendo i dati, quelli naturalmente siamo ad un quinto, poco meno di un quinto dello spoglio, però il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Sicilia in questo momento, perché vedo che il partito il Popolo della Libertà è al 13,50 e il Partito Democratico al 13,40, quindi Crocetta in testa, perché ha tutta la sua coalizione con l'UDC, il Movimento Politico, il PD, ma il primo partito come diciamo numero di voti è il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda se si votasse, diciamo, con un sistema diverso, differente da quello che è il sistema con cui si vota le regionali. Allora andiamo subito con Elisabetta Fiorito, cioè con chi sta vincendo Rosario Crocetta. Ci sono delle reazioni per quanto riguarda il Partito Democratico? Beh, certo. Allora, intanto bisogna dire che questo test è importantissimo, perché è un test, l'alleanza, abbiamo detto, PD-UDC si potrebbe riproporre poi alle politiche, quindi noi sappiamo tutti quanti che la Sicilia, sia dal PD sia poi dal PDL, come sentiremo con Vincenzo, viene proprio studiata in questo momento per capire le mosse che bisogna fare in vista delle elezioni politiche. Lo stesso Rosario Crocetta è molto ottimista, ha detto siamo comunque in testa in diverse province, e ha detto Crocetta risulta un movimento, un boom del Movimento 5 Stelle, ma non delle dimensioni di cui parlavano gli exit poll. Di questo invece il segretario PD Pierluigi Bersani non è molto convinto, lui aspetta i dati definitivi, ma su Grillo dice vediamo, perché alla fine c'è Grillo e c'è in modo serio. Poi molto entusiasta Beppe Lumia, senatore del PD, quando lo spoglio ormai in fase avanzata possiamo dire che si prospetta un'affermazione significativa, mentre Mario Adinolfi, che ricordiamo a livello nazionale appoggia Renzi, dice il risultato è un bene, si festeggerà Crocetta, ma quello del PD è al di sotto delle aspettative mentre Grillo sfonda, e la soluzione è quella di radicalizzare il cambiamento. Dall'IDV invece commenta il sindaco di Palermo Luca Orlando, l'astensionismo è clamoroso ma in qualche modo prevedibile. Il problema però, come sappiamo, anche per Rosario Crocetta sarà proprio il Movimento 5 Stelle che non farà alleanza di governo, valuterà i provvedimenti volta per volta, ma attualmente questa alleanza PD-UDC sta vincendo le elezioni in Sicilia, almeno dai primi dati. Grazie Betta Fiorito, sentiamo Vincenzo Miglietta. Erano i tempi che sono durati per molti anni in cui il Popolo di Libertà in Sicilia soprattutto prendeva tutto. Hai ragione Daniele, e per questo il clima qui in via dell'Umidità un po' quello della sconfitta annunciata, cioè la consapevolezza che i risultati che arrivano dalla Sicilia potrebbero avere un effetto domino sull'attuale struttura nazionale, occhi puntati quindi sul segretario Angelino Alfano, forte sostenitore di Nello Musumeci, che al momento, lo hai ricordato, si fermerebbe al 26% dei votanti. Ad Alfano si rimproverebbe in particolare la scelta di non aver trovato un accordo comunque con Miccichè, che da solo porterebbe a casa il 16%. È comprensibile per questo la mancanza al momento di commenti da parte degli esponenti del Popolo della Libertà. Il risultato della Sicilia, è inutile ripeterlo, andrebbe ad innestarsi sulla forte tensione nata dalla recentissima condanna di Berlusconi e dalla scelta del Cavaliere di restare in primo piano nella vita politica con il pressing annunciato dall'ex premier sul governo Monti. Quindi al momento il PDL è tra l'altro spaccato tra falchi e colombe, se staccare la spina a Monti, e quindi siamo in attesa proprio dei risultati definitivi della Sicilia, certo, per vedere cosa accadrà. Grazie Vincenzo Miglietta, intanto i nostri ascoltatori si sono espressi, infatti Nando da Cagliari ci ricordava proprio i tempi quando il Popolo di Libertà prendeva tutto in Sicilia, e Lidia ci ricorda o si lamenta che si sta mettendo troppo tempo in Sicilia a scrutinare con pochi votanti. Va bene, questa era l'edizione del 29 ottobre di Italia in Conto Luce, ci risentiamo domani, vi ricordo Facebook, pagina gruppo, Twitter e poi Conto Luce @radio24.it.